notte devastata questa sera e quindi un lavoro supplementare di messa a punto degli strumentazione. Vediamo se riusciamo a far partire finalmente Desideri Marginis. i droni sepolcrali appartenente a Johan Levin al secolo Desideri Marginis, ultimo lavoro Vita Archivet, un lavoro autoprodotto che giunge dopo molti anni di silenzio per questo artista svedese, anche lui artefice tra principali artefici della gloriosissima scena ambient della Scandinavia. Benvenuto anche al Fubio Biondo di Solar Lodge, del quale nelle prossime settimane andremo a riascoltare uno, direi anche il secondo, dei tre lavori fatti da Fubio Biondo. Andiamo avanti, arriviamo qui in Italia. Ultimo passaggio per Rising e Requiem for Father Murphy. Father Murphy, progetto esoterico industriale ritualistico piemontese. Anche qui atmosfere sì rarefatte, ma sacrali effettivamente, che emanano sentimento religioso, come si può intuire anche da Agnus Dei, Communion e Pie Gesù, le tre tracce brevi che ho scelto per questa sera. Ancora Father Murphy, salutiamo Govin Sincurana da Ferrara e Alicia qui da Roma. Thank you. Dunque era Rising e Requiem for My Father Murphy, come si intuisce l'ultimo lavoro di Father Murphy. Un album che trasuda effettivamente mistero da ogni nota e che sancisce la parola fine del progetto. 21 e 29, Onda Russa 87.9 in modulazione di frequenza. Intanto sentite questo calpestio dell'ultima traccia di questo lavoro. Noi andiamo oltre, rimaniamo qui in Italia e le scorse settimane ci siamo inebriate le orecchie con La morte viene dallo spazio. Ebbene, questa sera abbiamo qui invece sotto mano un altro progetto che parzialmente si rifà a quell'esperienza, anche se il tutto viene arricchito anche qui da un approccio, diciamo anche in questo caso religioso. Il progetto si chiama Dolpo, proviene da Reggio Emilia. Hanno stampato quattro lavori e questo quarto lavoro è uscito proprio il 19 gennaio di quest'anno, quindi un lavoro recentissimo. Si chiama Inner Himalayas, quindi le Himalaya interiori, se vogliamo, quindi un viaggio anche nel subconscio, un viaggio interiore. Un album che si apre con Insurmountable, Inner Obstacles. Si chiamano Dolpo e provengono da Reggio Emilia, un gruppo composto da diverse persone: Mattia Ferrantini, Mali Iea, Gabriel Marzi, Luca Gabrielli, Frat Frau, Adriano Pratissoli e Valentina Baldrighi, quindi una sorta di supergruppo che si serve di strumenti etnici, percussivi, strumenti bizzarri, ma anche molto elettronica. Il risultato finale, come sentite, oltre che il ritualismo rarefatto, anche delle meravigliose aperture verso il doom metal. Che nel mio caso è uno dei pochi casi, e scusate il gioco di parole, dove io riesco ad apprezzare tal tipo di sonorità. Si chiama Inner Himalayas, un album anche questo pervaso da spirito religioso pagano al pari dei Father Murphy. E qui si discerne sul fatto che la musica può essere matematica. Ecco perché, per esempio, viene citato il mat style, mat rock, scuole di pensiero a confronto. E un'altra scuola di pensiero a confronto è il suono destrutturato di Hypercube insieme a Unix 6 in un ottimo lavoro dal nome Binary Planet, un album che abbiamo già apprezzato le scorse settimane e che andremo a fare anche questa sera. Artefici di Siffatta Operazione, Rodrigo Passannanti e Frederick Iriarte. Questa sera ci andiamo ad ascoltare Acrobatic World e Flexi Patch, le due tracce che vanno a concludere Binary Planet, Hypercube e Unix 6. Anche questa sera ci siamo sollazzati ordunque con Binary Planet, da questa vincente collaborazione con Hypercube di Rodrigo Passananti e Unix City di Frederick Yarte. Quindi le manipolazioni sonore di Rodrigo e l'approccio jazz, la strumentazione classica, chitarra, contrabbasso, flauto, un flauto oscuro come viene citato quasi a paragone con Dracula e il suo castello, a quanto mi sembra di leggere, cimbali, percussioni varie, il tutto in questa intelligente operazione anche di elettroacustiche. Un ottimo lavoro dunque, un lavoro che esce attraverso la Submarine Broadcasting Company, una internet label, una net label come si suol dire, credo inglese, sì, ecco qua, della United Kingdom, come leggo sul profilo Bandcamp. E dunque ringraziamo Hypercube e Unix 6 per averci donato questo gioiello di elettronica e di elettroacustiche. Sì, è stato proprio comprato nel castello di Dracula, leggo, grazie a Rodrigo della traduzione. Rimango quindi basito. Peraltro io ho visto quel castello nel 1987, un po' sopravvalutato, devo dire, qui in Europa, un bel posto, e non sapevo che fosse anche foriero di flauti. Si citano a tal riguardo, non dei flauti ma di Hypercube, Union 66, di Anti-Group Corporation, di Eddie Newton, come costruzione magari armonica, ma soprattutto, secondo me, anche per l'approccio vagamente jazz che era anche in certi frangenti di quel progetto di Eddie Newton e che quindi vengono ripresi in questa occasione. Adesso zona Alliance Play Sounds Group, un saluto a Raffaele Pezzella, e ci inoltriamo in Electro Framework, a proposito di sonorità elettroacustiche. Questo è un vero e proprio compendio di piccoli geni di questo genere musicale, e cominciamo con l'ascoltarci Ruido Frotado con questa Lunatico Saturnino.